La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici, la Rosa Purpurea, allora in cinema di Radio 24, Franco D'Assisi qui con voi per raccontarvi le novità in sala di questo fine settimana. Una settimana dominata in termini di comunicazione, in termini mediatici, ma anche strettamente cinematografici, dal nuovo film di Quentin Tarantino, il film più atteso di questo riinizio, diciamo così, di stagione post-natalizio. Quentin Tarantino, Django Unchained, nelle sale da giovedì, ma sicuramente il film dominante di questo fine settimana. Non l'unico, però, ci sono diversi film di cui parlare e diversi temi da trattare. E allora noi cominciamo subito a entrare, come facciamo sempre all'inizio della trasmissione, nel clima delle novità in sala con i nostri titoli di testa. Torna Quentin Tarantino e guarda ancora il cinema italiano degli anni 70. Django Unchained è un apologo sulla vendetta di uno schiavo mascherato da film western, con attori in grande spolvero da Christoph Waltz a Jamie Foxx, passando per Leonardo DiCaprio. E se il cucciolo appena perduto potesse tornare in vita e riempire di nuovo di gioia le giornate di un bambino? È la trama di Frankenweenie, ritorno all'animazione di Tim Burton. Un Frankenstein in stile Nightmare Before Christmas. Il maggio francese diventa un film, premiato a Venezia. È qualcosa nell'aria, après me. Affresco sulla grande stagione del 68, vista con gli occhi di un 17enne indeciso tra personale e politico. Alla Rosa Purpurea, intervista esclusiva al regista, Olivier Assayas. Superata la profezia dei Maya, arriva nelle sale Cercasi amore per la fine del mondo. 21 giorni per l'annientamento della Terra da parte di un asteroide. Il tempo che ci vuole a Dodge e Penny per fare i conti con la propria vita e trovare l'ultimo amore. Allora cominciamo da Tim Burton, cominciamo da un grande autore che dopo il controverso, almeno in termini di risposta del pubblico, Dark Shadows, a me era piaciuto abbastanza, torna all'animazione alla sua maniera e ricorderete, ovviamente vi verrà subito in mente il suo modo dark fiabesco di raccontare storie che possono essere appunto La sposa cadavere, Nightmare Before Christmas e tanti altri film che Burton ha inventato proprio da zero a livello anche di animazione. Qui siamo da quelle parti con una storia che ha per protagonista un bambino, il suo amore per un cagnolino che non c'è più e che forse potrebbe, chissà, rinascere attraverso un meccanismo che ricorda quello di Frankenstein. Allora, Frankenweenie, raccontato alla Rosa Purpurea da Chiara Pizzimenti. Era un grande cane, un grande amico. Il miglior cane che un bambino potesse avere. Quando perdi qualcuno che ami, lui non ti lascia mai veramente. Trova un posto speciale nel tuo cuore. Non lo voglio nel mio cuore. Lo voglio qui con me. Lo so. Se potessimo riportarlo in vita, lo faremmo. Lui può. Victor Frankenstein, piccolo scienziato che ha perso l'amico più caro, il cane Sparky, sa come farlo tornare in vita. Lo ha visto fare a scuola dal professore di scienze. Si può fare, ha già detto qualcuno al cinema, e il miracolo si ripete. Il piccolo Sparky, ricucito a dovere, torna a vivere grazie alla scarica elettrica di un fulmine. Un miracolo che è difficile però tenere segreto nella cittadina di New Holland. Lo so. Sai cosa? Lo sai. No. Io penso tu sappia quello che so. Senti, non so cosa pensi che io sappia, ma io non lo so. Il tuo cane è vivo! È impossibile. Lo so, è impossibilissimo. Ma tu l'hai fatto. E ora dimmi come, o lo dirò a tutti. La voce dunque si diffonde. Gli altri piccoli nerd della città non vogliono essere da meno. E si creano veri mostriciattoli. Victor, mi serve il tuo aiuto. Hai visto quei cosi? Sembravano scimmiette di mare. Hai visto che sulla scatola vivono in un regno felice e tutti quanti sorridono? Sì. Col cavolo che sono così. Victor, mi serve il tuo aiuto. Gliel'ho chiesto prima io. Il mio problema più grosso. Sì, ha ragione. I grandi che hanno criticato il cane rinato dovranno, alla fine, rendere omaggio al suo coraggio. Love, love is strange, oh, Dopo La sposa cadavere e The Nightmare Before Christmas, Tim Burton torna all'animazione in stop motion, questa volta in un elegante bianco e nero e in 3D, ma soprattutto torna a se stesso, a un corto che aveva già il titolo Frankenweenie e che il regista aveva girato in live action per la Disney nel 1984, e ancora torna alla sua infanzia, dall'amico a quattro zampe all'amore per l'horror classico, quello degli anni 30. Il professore di scienze, a cui il volto di Vincent Price e la voce, in originale, di Martin Landau. Tutto ritorna nel cinema di Tim Burton, che apre questa pellicola con un film amatoriale girato dal piccolo Victor con Sparky come protagonista. Non è citazione senza sentimento, anzi, morte, rinascita e diversità, i temi di Burton sono ancora più poetici, perché così personalmente declinati. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, seconda parte del nostro programma, è arrivato il momento di occuparci di Tarantino. Difficile anche dire cose di questo Django Unchained che non siano già state dette o scritte, ma insomma, il film è lì, è nelle sale, è a vostra disposizione e quindi è il momento di occuparcene. Si è detto western, remake, western all'italiana, spaghetti western, Sergio Corbucci, certo, già dal titolo il Django di Corbucci è lì che aspetta, la storia più o meno, riecheggia, però sicuramente visivamente, sin dai titoli di testa, c'è una ispirazione che è un omaggio al western all'italiana e a un certo tipo di western all'italiana, non tutto. E questa sicuramente è una paternità, ancora una volta un omaggio che Tarantino rende al nostro cinema di genere, come già aveva fatto in parte con Bastardi senza gloria. Se lì in Bastardi senza gloria Tarantino aveva voluto in qualche modo riscrivere una parte del suo cinema, in questo film vuole divertirsi, lo fa molto bene, lo fa anche facendo divertire molto lo spettatore, senza eccedere in tarantinismi, con una certa ulteriormente sviluppata capacità di rendere fluido il racconto, con gli eccessi di violenza che gli conosciamo, ma anche con una maestria nel narrare i personaggi e nel farli recitare, che è davvero straordinaria. Ma non anticipiamo troppi giudizi, poi fra un po' sentiamo anche Boris Sollazzo. Raccontiamo la storia, la trama. Django, Jamie Foxx, è uno schiavo che viene proprio nelle scene iniziali liberato dai suoi aguzzini grazie a un dentista che sta passando con una singolare carrozza a cavalli con un mega molare gigantesco montato sopra, Christoph Waltz, ovviamente, bravissimo, che è un cacciatore di taglie, sulle orme di due pericolosi ricercati, decide che con Django, che ha un bel fisico, insomma è forte e tosto, sarà più facile andare a riscuotere questa taglia dopo avere recuperato questi due wanted che si aggirano per gli stati del cotone degli Stati Uniti, gli stati dello schiavismo, gli stati del sud. E le due storie si intrecciano perché a sua volta invece Django sta cercando la moglie che gli è stata portata via, che è stata portata da uno schiavista, che è appunto Leonardo DiCaprio, in una enorme tenuta, in un'enorme piantagione, e lì tenuta schiava appunto. E allora, visto che ognuno ha il suo interesse, ma i due interessi coincidono, i viaggi dei due si uniscono e sin da subito Django sembra cominciare a imparare qualcosa dal filosofo Schultz. Smettila di inimicarti, Candy. Non me lo sto inimicando, lo sto incuriosendo. Come? Prendendo a insulti questi poveri schiavi? Ricordo l'uomo che mi ha fatto uccidere un altro uomo di fronte a suo figlio, senza battere ciglio. Te lo ricordi? Certo che me lo ricordo. E mi hai detto, questo è il mio mondo, e nel mio mondo ti devi sporcare. Sto facendo questo, mi sto sporcando. E questa è la filosofia di Django. Avete sentito Candyland? Candyland non è altro che appunto questa enorme piantagione nella quale Calvin Candy, appunto Leonardo DiCaprio, tiene prigioniera Brunilde, la moglie di Django, ma soprattutto gestisce così da lontano, in mezzo a un divertissement disumano, quelle che sono i suoi loschi traffici e soprattutto il traffico degli schiavi, che lui usa anche per farli combattere, quasi fossero dei dei galli da far combattere in un recinto fino a quando uno dei due a mani nude non viene ucciso. E allora il viaggio prosegue, si arriva a Candyland, si arriva al cospetto di Leonardo DiCaprio. Aveva ragione Django a dire lo sto incuriosendo. Effettivamente il negriero è incuriosito da questa figura, che sembra la figura di un uomo libero, di un uomo che ha riacquistato la sua libertà, e così lo spaccia tra l'altro Schultz, ma che invece sta appunto cercando vendetta. Come ti chiami, giovane? Si chiama Django Freeman. Dove l'avete rimediato? Un fortuito susseguirsi di eventi ha portato Django sulla mia strada. Ho sentito parlare di te. Ho sentito che dici che tutti quei mandingo sono meno di nulla, che non ce n'è uno che valga la pena di comprare. Sono curioso. Com'è che sei così esperto di mandingo? Sono curioso del perché siete così curioso. Che hai detto, giovane? Calma, Butch. Non voleva offendere e non ha offeso. E insomma, siamo proprio di fronte al momento nodale del film. I protagonisti, Schultz, Django e Calvin Candy, sono finalmente nello stesso posto, finalmente al cospetto di una vendetta tanto sospirata e forse finalmente arrivata. Adesso giochiamo insieme, poi fra pochissimo, parliamo ancora di Django Unchained con Boris Sollazzo. Ma cominciamo prima dalla nostra prima traccia del film misterioso di oggi. Il mio nome è Ada Wong, operativa per l'Umbrella Corporation e una delle migliori agenti di Albert Wesker. So esattamente chi e che cosa sei. La vera domanda è: perché non cancello immediatamente la tua identità? Io non lavoro più per l'Umbrella ormai. Come sempre dovete dirci di che film si tratta, vi aiuto. In questo caso oggi giochiamo con una saga, quindi dovete dirci di quale saga si tratta, da quale saga è tratto questo film. Scrivere alla Rosa Purpurea a @radio24.it con il vostro indirizzo per provare a vincere proprio questo film, questa produzione cinematografica, e più tardi sentiremo altre due tracce. Allora, dicevamo Django Unchained, abbiamo parlato della trama, ci fermiamo qui, è il momento in cui i personaggi principali confluiscono, quello che succede da lì in poi chiaramente lo lasciamo alla visione del film, però insomma ce n'è abbastanza di cui discutere con Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi e che saluto. Ciao Boris. Ciao Franco, un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Allora, Django Unchained, un film, potrei dire, in tre parti. Una prima, che è la lunga cavalcata di avvicinamento a Candyland. Una seconda, che è il momento Candyland, il momento da interni, diciamo, quello in cui molto spesso Tarantino crea le sue scene madri, le sue scene più importanti, e forse anche in questo caso è così, e poi un epilogo. Cominciamo da questo. Ti convince questa struttura del film o avresti cambiato qualcosa? Ma io no, questa volta non avrei cambiato molto. È una struttura che nel cinema di Tarantino non mi convince molto spesso, e Inglourious Basterds secondo me è la dimostrazione. Inglourious Basterds non a caso nasceva come un progetto televisivo e probabilmente aveva bisogno di tante puntate, e in quel film c'erano almeno altri 5 film. In questo caso mi sembra invece che c'è un Tarantino, adesso dico un'esagerazione, quasi spielbergiano nella partitura del suo film, che appunto, come dici tu, di fatto è in tre atti o in tre film, che probabilmente si concede la solita mezz'ora in più per il proprio divertimento, che però è anche quello degli spettatori, e si fa aiutare probabilmente anche dal fatto che sono molto in palla qui gli attori, lo seguono davvero e non sono solo esercizi di stile quelli che affrontano, come spesso gli accade, e il fatto di avere un Valls in grandissima forma e anche un Jamie Foxx che ha un carisma straordinario nell'interpretare Django gli consente anche di fare tutte quelle dissertazioni, tutte quelle deviazioni dalla storia principale che lui ama molto e che in questo caso tiene bene a bada e tiene le redini di tutto quanto, anche grazie al fatto che in ogni atto ci sono comunque momenti straordinari, in particolare nell'ultimo c'è l'aiuto di Samuel L. Jackson e di Leonardo DiCaprio, che sono direi al meglio. Quindi onestamente io, che sono abbastanza critico nei confronti dell'ultimo Tarantino, quello per intenderci da Jackie Brown escluso in poi, Qui invece secondo me trova un brillante equilibrio nel racconto, nello studio della recitazione e nel divertimento proprio degli spettatori. E quindi insomma davvero per una volta un lo bacchetto, ecco. No, io voglio aggiungere solo proprio a chiosa, se è vero come tu dici che Tarantino mette semina momenti di grande cinema in tutti e tre, diciamo i terzi più o meno del suo film, è vero che a mio modo di vedere forse nell'ultimo terzo questi fuochi d'artificio sono un po' più fini a se stessi rispetto a quello che accadeva nella fase di costruzione del film. Nella prima parte e nella seconda parte tutti gli escamotage, tutte le trovate cinematografiche sono al servizio di uno sviluppo della narrazione. Nel terzo forse c'è un po' più di divertimento, diciamo gratuito, anche se di grande divertimento si tratta. Però questo secondo me non toglie che vedere Django Unchained è una grande, grande libidine per gli occhi, per la cinefilia, per chi ci arriva con un'idea di cinema, insomma, che deve essere grande narrazione, grande spettacolo, grande ritmo, grande montaggio, grandi immagini. Ecco, questa cosa qui succede sempre in questo film. E hai fatto bene a citare anche Samuel Jackson, che io avevo erroneamente dimenticato nel trio di attori principali che si giocano la partita, perché Samuel Jackson in questo ruolo di schiavo redento, normalizzato, diciamo così, al servizio di Calvin Candy, Leonardo DiCaprio, è davvero straordinario. Vedremo cosa succederà, cosa ne dirà il pubblico. Questo è Django Unchained, tu rimani con noi, Boris, perché fra poco dobbiamo parlare di un altro film importante, magari non perfettamente riuscito, ma importante, presentato a Venezia e che adesso arriva nelle sale italiane, cioè Après me, vuol dire dopo maggio, e quel maggio è il maggio del 68, il maggio francese. In Italia esce col titolo di Qualcosa nell'aria e ascolteremo l'intervista con Olivier Assayas. Eccoci ancora insieme, terza parte della Rosa Purpurea. Abbiamo detto settimana con pochi titoli, ma grande densità. Andiamo avanti, dopo Tim Burton e Quentin Tarantino incrociamo uno dei registi più singolari, più particolari dell'universo autoriale francese, questo Olivier Assayas, che già in passato ci ha regalato film importanti, uno dei discepoli della scuola dei Cahiers du Cinéma, e che a Venezia quest'anno è stato anche premiato per il suo Après me, per aver cercato di fare un'operazione che altri registi hanno fatto non solo in Francia, anche in Italia per esempio, con alterne fortune, dobbiamo dire, cioè quello di raccontare il loro 68. In questo caso, in Après me, Qualcosa nell'aria, Olivier Assayas racconta il dopo 68, cioè quello che c'è stato dopo quel maggio che ha cambiato, almeno per un po', i destini del mondo. E allora noi cominciamo subito a entrare nel clima di questo film, un film che racconta appunto di un ragazzo giovane, per prendersi troppe responsabilità rispetto alla parte politica di quegli anni, ma non troppo giovane per assumerne e acquisirne e metabolizzarne in pieno, dobbiamo dire con grande dovizia, quella parte personale. Sapete, erano gli anni in cui si divideva il personale e il politico. Ecco, lui sul personale era molto forte, ragazze, vita un po' da bohemien, certo la politica, ma insomma anche l'arte, anche la musica, anche il cercare dentro se stessi un senso nella vita. Questi due côté in cui si divideva l'esistenza, penso, di quasi tutti gli adolescenti in poi, dall'adolescenza in poi, di quei momenti. E quindi le manifestazioni, le occupazioni a scuola, gli scontri magari con la polizia o con opposte parti politiche, i viaggi, tutto questo c'è dentro questo racconto di formazione che è appunto Après me. E allora cominciamo a raccontare un po', a sentire un po' questa clip che ci porta nel clima del film. Sai, avevo paura che tu fossi cambiata. E insomma, lo sai. Tu no? No, quasi per niente. Sei molto fortunato. Cosa vuoi dire? Che tu sai quello che vuoi fare. Tu vivi il presente. E ho il terrore che tutto mi sfugga. Ho perduto te. E forse sto perdendo anche tutti questi anni. Mi sembra questa la clip che racchiude meglio il senso di quello che dicevo, cioè questa, se vogliamo, questa prevalenza quasi nel cercare vie personali all'adesione a un grande progetto, a una grande idea di politica e di società. Fra poco sentiremo proprio Olivia Sayas raccontarci da cosa sia nata anche l'idea di questo film. Boris, un film che a Venezia, dicevo, ha un po' diviso, perché da una parte c'è sicuramente il coraggio di affrontare una storia così, anche così complessa da raccontare, perché si raccontano soprattutto sensazioni e sentimenti prima ancora che fatti, però sicuramente forse con qualche sbavatura a livello di sceneggiatura che a mio modo di vedere, almeno personalmente, rischia di non far decollare mai il film in termini squisitamente cinematografici. Volendo fare una provocazione, dico che è stato lo stesso 68 e il post 68, diciamo quel decennio che è venuto dopo quel maggio in cui si pensava di poter cambiare il mondo, è una sceneggiatura non scritta benissimo e con moltissime sbavature, con protagonisti probabilmente non all'altezza. Io credo che la forza di Assayas, al di là di tutti i difetti che gli riconosco e non sono pochi, sta proprio nel riportare quella sensazione, quei sentimenti di idealismo e velleitarismo contemporaneamente che percorrevano quegli anni. Credo che riesca ad essere allo stesso tempo nostalgico e feroce a Sayas, con una sensibilità veramente tutta sua, probabilmente derivante dal fatto che è onesto soprattutto nei propri confronti, soprattutto nei confronti della propria autobiografia, che poi esplode in tutta la sua bellezza e tenerezza in quel finale che, insomma, per i cinefili sarà una festa. E quello è il punto, secondo me, che Lola Creton, che ha un viso straordinario a mio parere e una presenza scenica straordinaria, e tutti i suoi compagni nel senso più ampio del termine rappresentano proprio quello che poteva essere quel periodo e non è stato, e ne rappresenta anche tutte le piccole ipocrisie, contraddizioni, e secondo me il 68 in maniera così onesta intellettualmente ed emotivamente l'avevano raccontato in pochi, e forse il fatto che non sia così bello come molti ce l'hanno raccontato e anche il film non sia così bello proprio per questo motivo è il segno del successo del film e non dell'insuccesso. Quindi a mio parere alla fine è un film molto forte, molto importante, che va visto nonostante tutti i suoi difetti, proprio perché probabilmente racconta i difetti di un'epoca che purtroppo ne ha avuti tanti. E allora questo è A Premè, qualcosa nell'aria di Olivia Sayas, che sentiamo in questa intervista realizzata in esclusiva per La Rosa Purpurea. Beh, direi che ha a vedere con la mia memoria degli anni 70 e della mia gioventù. Io ero un quindicenne nel 70 e mi ricordo benissimo come ero attratto, diciamo, della contracultura inglese, la musica, l'arte, la pittura, la free press, eccetera. E dall'altra parte c'era l'Italia, con la bellezza del paese, con la storia, con la pittura. Io volevo essere un pittore a quest'età, io speravo di diventare forse un regista, ma quello che mi appassionava era la pittura, e per me la pittura era italiana, era veramente una cosa, perché un parte della mia famiglia è italiana, dunque io venivo sempre l'estate in Italia, e anche quando sono divenuto un adolescente si sono andati da solo, sempre attratto da questo fascino per l'arte italiana. Ecco, tu hai spostato il punto del tuo racconto tre anni dopo i fatti del maggio francese, A Premè appunto, quasi come per voler far vedere, raccontare cos'era rimasto di quel grafico, di quel ruggito che fu il 68. Beh, di maggio 68 non l'ho conosciuto, io ero troppo giovane per viverlo, dunque quello che ho conosciuto è l'inizio degli anni 70, e era un tempo molto diverso, era un tempo anche dove le aspirazioni della gioventù erano molto serie, c'era una fede nel cambiamento della società, c'era una fede in un futuro rivoluzionario, non era visto come un'utopia, c'era una evidenza che dopo 3 mesi, 6 mesi, 1 anno al massimo ci sarà una rivoluzione che cambierà la società dal tutto al tutto. Dunque nessuno pensava di avere un lavoro serio, una carriera, nessuno pensava al suo futuro personale, tutti pensavano al futuro collettivo, da questo cambia che veniva. C'era qualcosa in questo idealismo, ma in questa convinzione idealistica degli anni 70 che è un momento storico affascinante e che non è stato veramente capito, narrato dal cinema. La cosa bella del tuo film è che ci racconta come ognuno poi avesse il suo 68, avesse la sua rivoluzione, chi era più ideologizzato, chi cercava più una sua strada nell'arte. C'era l'anima più dreamers, per dircela con Bertolucci, e c'era l'anima più concreta, più politica. Tu da che parte stavi? Beh, io ero in mezzo, perché io ero attratto dalla politica, come tanti giovani della mia età. Nell'ambiente del liceo si doveva spiegare agli altri ragazzi esattamente di quale parte eri in termini di politica, se eri un trotskista, un maoista, un libertariano, non so come si dice in italiano, anarchico. Non era possibile di non definirsi in termini politici. Dunque sì, io ero anche attratto delle idee politiche, ma non nel lato diciamo ideologico. C'erano gli ideali collettivi della politica e poi c'erano le aspirazioni personali che erano delle aspirazioni artistiche. E allora Olivier Sayas alla Rosa Purpura ci ha raccontato la genesi di A Preme Qualcosa nell'aria, seconda traccia del film misterioso di oggi. Io mi chiamo Alice, ci siamo incontrate nel deserto del Nevada 18 mesi fa, non ricordi più? Mikey, Carlos, LJ, Kmart. Siete partiti in elicottero con un gruppo di sopravvissuti diretti in Alaska. Più che il film misterioso, la saga misteriosa. A quale saga appartiene questa clip, questo film che vi abbiamo fatto ascoltare? Scriveteci alla Rosa Purpura, @radio24.it, e provate a vincere appunto questa saga, l'intero cofanetto con i film che la compongono. Insomma, un premio non da ridere, ovviamente, per il primo, il più veloce, il più bravo del sabato e della domenica. Più tardi avremo l'ultima possibilità. La missione finale per salvare l'umanità è fallita. L'asteroide dal diametro di 70 miglia, denominato Matilda, si schianterà sulla Terra fra 3 settimane esatte. Noi accompagneremo il conto alla rovescia verso la fine del mondo con tutti i vostri classici preferiti del rock. You see the sky. Le note straordinarie di Burt Bacharach, che fanno anche da sfondo alla colonna sonora di Cercasi amore per la fine del mondo. Avete sentito l'incipit, ed è da lì che comincia un po' tutto. La Terra, minacciata da un tremendo, enorme asteroide, gli ultimi tentativi per deviarne la direzione sono falliti. Ormai, entro 3 settimane, questo asteroide metterà fine alla storia di questo pianeta azzurro. E allora, come si organizza la gente? Che cosa fa? Come passa questi ultimi giorni annunciati? C'è chi la butta in baldoria, c'è chi si mette a pregare, c'è chi fa quello che non ha mai fatto nella vita e c'è chi magari cerca di fare sì che i conti tornino alla fine, quando tireremo una riga, e magari va a trovare una famiglia che ha visto poco, va a cercare angoli di isolamento per stare con se stesso. È quello che accade ai due protagonisti di questo film, che nonostante come dire i prodromi catastrofici, è in realtà una commedia, anzi addirittura in certi momenti una commedia sentimentale. Keira Knightley e Steve Carell sono appunto i due protagonisti, vicini di casa che non si erano praticamente mai visti, mai badati l'un l'altro durante la loro vita normale, quella che aveva una prospettiva futura, e che invece di fronte a condizioni straordinarie si trovano, si piacciono anche e forse, chi lo sa, si innamoreranno anche da qui alla fine di questo viaggio che deve durare 21 giorni e saranno 21 giorni molto molto particolari. Boris, un film che ha una premessa, a mio modo di vedere, interessante, anche se lo svolgimento anche qui non sempre è all'altezza. Mi pare che soprattutto qui ci sia un po' un problema di regia da parte di Laurence Cafaria, già sceneggiatrice, adesso all'esordio dietro la macchina da presa, nel cercare di far procedere la storia con qualche strappo cinematografico che avvinghi un po' di più lo spettatore. Devo dire che questo film a me ha messo in una situazione molto particolare. Io trovo che sia decisamente mediocre la regia, onestamente, e anche la scrittura non è straordinaria, però man mano che andava avanti il film io confesso di essermi commosso, confesso di essermi lasciato coinvolgere dalla storia di questi due ragazzi, che due uomini, che un uomo e una donna, che hanno lasciato alle spalle un passato un po' complicato, un po' difficile, forse hanno perso tanto tempo e se ne accorgono solo quando il mondo sta per finire. Ed è un qualcosa di molto particolare. La regista, secondo me, le sbaglia tutte a livello di regia. Faccio un esempio stupido per far capire tutto il resto. Diciamo che i due attori hanno due difetti fisici abbastanza forti. Steve Carell è uno straordinario attore, ma ha un naso decisamente pronunciato. E di Keira Knightley e della sua scucchia, del suo diciamo mento un po' sporgente, sappiamo molto. Ecco, non fa che ritrarli, non fa che riprenderli sempre di profilo, quasi a volerli punire. E nonostante questo, però, quei due, quel sentimento che nasce in maniera stranissima, sarà questa colonna sonora straordinaria, che oltre a Bacharach c'è anche Beach Boys, c'è anche The NXS, quella tenerezza ingenua, naif, alla fine non può che, anche quel Martin Sheen che arriva come il cavolo a merenda e che poi però ti prende subito, non so che dire, alla fine posso dire, probabilmente il film è brutto, ma ti conquista il cuore, e forse questo basta, essendo un film assolutamente da tanta roba, dici poco, insomma. Se noi possiamo anche raccontare di film brutti, ma se ti hanno conquistato il cuore, insomma, vuol dire che il loro mestiere l'hanno fatto. Grazie Boris, ci risentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana. Eccoci ancora qua, quarta parte del nostro programma, cinema da vedere in casa, ma teniamoci ancora qualche secondo per parlare di un'iniziativa molto bella che si intitola Mercoledì Doc, e che è un progetto vero e proprio su Milano e su Roma per offrire tutte le settimane in sala al cinema un bel nuovo importante documentario italiano, appunto di nuova produzione. Sono coinvolti il Cinema Palestrina Milano, il Cinema Aquila Roma. La sala ogni mercoledì programmerà un documentario su tre proiezioni, quindi anche passaggi importanti. Il prezzo del biglietto non potrà essere superiore a 5 euro, i prezzi quindi molto popolari, e l'esercente poi potrà, se il titolo funzionerà, programmarlo anche nel weekend immediatamente successivo. Si comincia il 23 gennaio con Fukushima, incentrato sul disastro nucleare di Fukushima in Giappone, di Alessandro Tesei, e il 30 gennaio Ciao Italia, invece, sul tema molto interessante, molto intrigante, di tantissimi, pensate, sono 30.000 italiani che si sono trasferiti a Berlino, che hanno scelto di vivere nella capitale tedesca, e c'è questo documentario di Barbara Bernardi e Fausto Caviglia. Tra l'altro, quel 30 gennaio, nella proiezione del Palestrina a Milano, potremo anche incontrarci, perché ci sarà un dibattito al quale personalmente presenterò. E allora, mercoledì Doc, Milano e Roma, informatevi, perché il mercoledì può essere un giorno per questa importante e ritrovata, ravvivata forma di cinema, assolutamente non minore, come a volte si tende superficialmente a pensare. Dicevamo, cinema da vedere in casa significa, come sempre, collegarsi con la redazione di Film TV, dove ci aspetta il nostro Giulio San Giorgio, con il quale abbiamo dato un'occhiata ai palinsesti della prossima settimana. Ciao Giulio! Ciao Franco, e un ben ritrovati ai radioascoltatori. Ecco, settimana scorsa, Giulio, eravamo proprio in chiusura di trasmissione quando è venuta a mancare Mariangela Melato. Abbiamo avuto il tempo di un fugace saluto qui dalla Rosa Purpurea. Questa settimana però vogliamo sottolineare un bello omaggio che arriva su Iris, digitale terrestre, come sempre in chiaro e gratuito, con due film, Dimenticare Venezia e Film d'amore d'anarchia. Sì, sono due film, Dimenticare Venezia su Iris all'1.50 e a seguire Film d'amore d'anarchia sempre su Iris alle 3.50. Due film per ricordare Mariangela Melato, scomparsa pochi giorni fa, attrice che a teatro fu diretta da tutti i grandi, da Foa, Streller, da Visconti a Ronconi, e che è stata attrice feticcio per Lina Verdi. Robert Mueller che per Franco Brusati, gli autori dei film che segnaliamo. Di Brusati, Dimenticare Venezia, una ronda di due coppie omosessuali di fronte alla morte, un quadro malinconico ed elegiaco nel quale ritornano echi di Visconti e Bergman. Il film tra l'altro andò a tanto così da prendere l'Oscar come miglior film straniero. E a seguire Film d'amore ed anarchia, ovvero Stamattina alle 10 in Via dei Fiori, nella nota Casa di Tolleranza, titolo fluviale, grottesco tra la politica e i sentimenti, uno dei migliori film della Wertmüller, per saggiare le doti da commediante nella commedia della Melato, accanto a Giancarlo Giannini. E allora notte dedicata alla Mariangela Melato, lunedì 21 gennaio su Iris, e invece un film su Kubrick in un certo senso, che però a tutti quelli che hanno amato il grande cinema di Kubrick sicuramente farà piacere vedere, è Color Me Kubrick. Sì, Color Me Kubrick, martedì su Rai Movie alle 2.35. Brian Cook, che fu il braccio destro di Kubrick in Barry Lyndon, Shining e Eyes Wide Shut, è il regista, mentre l'assistente personale di Kubrick, Anthony Frewin, ha scritto la sceneggiatura di questo film, che tratta la storia vera e anche molto romanzata di Alan Conway, che per tutti gli anni 90 si finse in società a Kubrick, nonostante non somigliasse affatto al regista e non conoscesse quasi nulla della sua vita. Questo però gli permetteva di ottenere favori molto molto personali. Una curiosità decisamente mai distribuita in Italia, con un gigionissimo Malkovich come protagonista. E allora Color Me Kubrick, martedì 22 gennaio ore 2.35, sempre della notte, videoregistratori accesi mi raccomando, su Rai Movie. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Grazie a te Franco e alla prossima settimana con le nostre segnalazioni. E allora è arrivato il momento di giocare con la terza e conclusiva traccia della saga misteriosa di oggi. Ora sappiamo con certezza che non hanno un vero bisogno di nutrimento. Sono affamati di carne, ma non ne hanno bisogno. Secondo le mie ricerche, potrebbero essere attivi per decenni. La rosa purpurea @radio24.it. A quale saga appartiene questa clip che abbiamo fatto ascoltare? Nome, cognome, indirizzo, oltre alla nome appunto della saga, per provare a vincere per il più bravo del sabato e della domenica il cofanetto con l'intera saga in questione. Andiamo indietro di 7 giorni, abbiamo giocato con un classico della storia del cinema. E la fine della rivolta araba? Io non sono la rivolta araba, Ali, e non sono arabo. Un uomo può essere tutto quello che vuole, l'hai detto. Perdonami, così credevo. Tu l'hai dimostrato. Guarda, Ali, guarda, sono io. Di che colore sono? E allora si trattava di Lawrence d'Arabia, abbiamo detto un super classico, un film che ha scritto la storia del cinema. Lo riceveranno i due ascoltatori che sono stati i più rapidi nell'indovinare il sabato e la domenica, Nicola Ghezzi di Daone, provincia di Trento, e Mauro Capannolo dell'Aquila, e riceveranno davvero una sorpresa, è stata quasi una sorpresa anche per noi, lo straordinario cofanetto a tiratura limitata, edizione speciale per il cinquantenario di Lawrence d'Arabia, che è una delle edizioni, la più prestigiosa delle edizioni che Sony ha messo in circolazione appunto per festeggiare in Blu-ray questo 50° anniversario di questo straordinario film. Una confezione super che ci facciamo raccontare dal nostro Claudio Pofi. Ciao Claudio! Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Sì, edizione in alta definizione da parte di Sony Pictures Home Entertainment, veramente di prestigio, restauro dell'opera in 4K partendo da una copia 70 mm. Ricordo che questa edizione in un video contiene l'opera nella sua interezza, sono 227 minuti contro quella ridotta di 185, una qualità per le immagini veramente sbalorditiva. C'è un appunto che faccio legato al salto di pochi frame, in particolare all'interno delle sequenze rimontate presentate con nuovo doppiaggio in italiano. Qualità audio per l'italiano è di buona fattura, con un Dolby Digital multicanale sicuramente superiore alla traccia DTS ad alta risoluzione in inglese. Sono tantissimi gli extra, con la possibilità di visionare il film accompagnati da informazioni testuali sulla produzione e approfondimenti biografici. C'è un secondo Blu-ray con tanti approfondimenti, tra cui immagini della realizzazione del film, il ricordo del film da parte di Peter O'Toole e Steven Spielberg. Questa edizione per collezionisti in particolare, oltre a un fotogramma del film e un libro di 88 pagine, contiene il CD della colonna sonora e un terzo Blu-ray con ulteriori extra, tra cui una scena inedita eliminata. Ovviamente, come dicevamo, potete anche prenderlo in videoteca nella versione versione normale, semplicemente in Blu-ray. Ma insomma, i nostri ascoltatori avranno questo grande privilegio, i nostri vincitori, di ricevere questo straordinario cofanetto. E andiamo invece alle novità che arrivano in un video, a partire dall'udienza di Marco Ferreri. La sua richiesta è insolita, ma nessuno può contestarle il suo diritto e io sono qui per aiutarla. Grazie, monsignore. Ma è necessario che lei si armi di pazienza. Anche noi siamo liberati dalla burocrazia. Sapete quanta gente ha problemi a tutti i livelli? Per risolverli ci vorrebbero giornate di 48 ore. Comunque, per chi ama la verità, il dialogo è sempre possibile. Lei crede nel dialogo? Sì, signore. Giovane cattolico, il misterioso Amedeo arriva dal nord per parlare con il Papa. Il tentativo di incontrarlo durante un'udienza di gruppo ne provoca il fermo e l'immediato rilascio. È seguito da vicino dal commissario Aureliano, che gli mette accanto una bella prostituta, ma lui non desidera in alcun modo rinunciare alla possibilità di comunicare col Santo Padre senza rivelarne il vero motivo. Dal maestro Marco Ferreri, sottovalutato e grottesco dramma che mostra una chiesa labirinto incapace di prestare attenzione alle vere necessità dei propri fedeli. Edizione Blu-ray, alta definizione da parte di Cristaldi Film. Purtroppo il risultato qua non è assolutamente eccellente, c'è una limitata resa con una compressione evidente, ci sono eccessi di contrasto, rumore video, l'audio in italiano anche ad alta risoluzione comunque è di limitata resa. Tra gli extra sono molto interessanti, segnalo l'intervista a Claudia Cardinale e una presentazione del film a cura di Enrico Ghezzi. E questo per quanto concerne invece l'udienza, dicevamo, La fredda luce del giorno è l'altro film di cui vogliamo parlarvi, siamo in tempi sicuramente più recenti e con tutt'altro clima. Io non organizzo eventi di gospel e non invito esperti di Picasso. Il lavoro all'ambasciata è una copertura. La verità è che lavoro per il governo da tanto tempo. E che lavoro fai? Ecco, io lavoro per una divisione della CIA. Una divisione speciale della CIA. Quindi la mamma e Josh sono stati rapiti. Non è come e tu mi tratti ancora come un idiota. Non è vero. Sì, invece. Nonostante la crisi finanziaria in cui versa la sua azienda, l'americano Will Shaw decide di fare felice la famiglia raggiungendola in Spagna per una breve vacanza. Ben presto la madre e il fratello con la fidanzata scompaiono nel nulla e dopo aver assistito alla morte del padre, in realtà un agente CIA, Will si ritroverà coinvolto nei traffici illeciti di una doppio giochista del governo americano. Thriller convenzionale, eccessivamente criticato, con un ottimo cast di attori, un buon regista che gioca bene le sue carte nonostante l'esile trama. Edizione Movimax DVD, ma soprattutto Blu-ray, quest'ultimo di eccellente qualità, c'è un audio DTS ad alta risoluzione non solo in inglese ma anche in italiano e come extra abbiamo solo il trailer. E allora grazie Claudio, appuntamento la prossima settimana. Ciao, a presto. Siamo arrivati alla fine allora della Rosa Purpurea e ovviamente anche questa settimana noi vi chiediamo e vi invitiamo di andare sulla nostra pagina Radio 24 La Rosa Purpurea su Facebook, perché è lì che la nostra comunità poi si forma e tutta la settimana sta insieme allegramente parlando di cinema. Sono tanti gli ascoltatori e gli amici della pagina Facebook che ormai ci scrivono quasi quotidianamente per dire cosa hanno visto, cosa andranno a vedere, chiedere consigli, scaricare la puntata, giocare come abbiamo fatto la scorsa settimana con grande successo per quanto riguardava il musical Frankenstein Jr. Allora cliccate mi piace sulla pagina della Rosa Purpurea Radio 24. Grazie a Roberto Scaltritti che ci ha assistito come sempre in regia, a Giorgio De Luca, nostro compagno d'avventura in redazione. Un saluto e un appuntamento alla prossima settimana da Franco D'Assisi.